una situazione disastrosa. Già solo il fatto che chi vuole protestare è costretto ad uno spazio marginale nel mezzo del deserto per contestare i temi trattati in COP27, evidentemente chiarisce quanto piccolo sia lo spazio per la società civile in Egitto. Secondo Amnesty sono 60.000 i prigionieri politici, ma la cosa che fa più impressione è che è in atto, con grazie anche alla conferenza COP27, un'operazione di greenwashing, che poi è stata definita così anche dall'attivista Greta Thunberg, cioè il tentativo di coprire, di sostenere questioni ambientali di facciata per coprire la mancanza di rispetto dei diritti umani. E infatti questa conferenza è stata preceduta da tutta una serie di arresti, veramente si parla di decine e decine di persone che vengono fermate per strada senza motivo, tra cui attivisti che veramente in maniera pacifica protestavano per l'ambiente. Il caso per esempio dell'attivista ambientalista indiano Ajit Rajagopal, che per 24 ore è stato detenuto e lui sostanzialmente faceva una marcia pacifica a piedi per sensibilizzare sulle questioni dei cambiamenti climatici e dell'ambiente dal Cairo a Sharm el-Sheikh. Un altro caso abbastanza eclatante è quello di Osam Al-Ghamri, che è stato arrestato in Turchia. Osam aveva chiamato gli attivisti egiziani e la società civile egiziana a mobilitarsi per una manifestazione contro il regime di Al-Sisi l'11 novembre, quindi era questa data simbolica 11-11, ed è stato arrestato, poi rilasciato, però si sono perse le tracce di suo figlio che si trova in Egitto, quindi evidentemente un'altra azione intimidatoria nei confronti di chi difende i diritti umani. Ma se vogliamo andare nello specifico, c'è per esempio Kamal Abueita, che è uno dei tanti che segue il comitato presidenziale per la grazia dei detenuti, che ha detto che c'è un solo comitato per la grazia dei detenuti, ma ci sono tanti comitati per l'incarcerazione, tant'è vero che secondo l'Egyptian Network for Human Rights sono stati 200 gli attivisti che sono stati arrestati solo nel governatorato di Suez in queste settimane, e decine e decine ad Alessandria. Ci sono anche casi molto interessanti come quello della giornalista Manal Ajrama e di altre giornaliste, che in particolare hanno denunciato il fatto che l'Egitto è una delle più grandi prigioni per giornalisti e evidentemente molti di loro subiscono continue intimidazioni. Un occhio speciale deve essere sempre rivolto verso il caso di Ala Abdel Fattah, che è questo attivista socialista di sinistra che è in sciopero della fame perché veramente sta rischiando la vita. Là ha iniziato nei giorni precedenti alla conferenza di Sharm el-Sheikh a non assumere pure le 100 calorie che assumeva in queste settimane, perché lui è in sciopero della fame da centinaia di giorni ormai, e quindi evidentemente da domenica, e quindi oggi è il secondo giorno, è anche in sciopero della sete. Quindi le condizioni di salute di Ala preoccupano talmente che ci sono stati fatti vari appelli. Le sorelle Mona e Sana avevano organizzato un sit-in agli uffici degli esteri a Londra, e poi Sana si è recata alla conferenza di Sharm el-Sheikh. Stesso premier inglese Rishi Sunak aveva detto che avrebbe sollevato la questione e comunque aveva chiesto rispetto delle posizioni di Ala, considerando che Ala ha la doppia cittadinanza egiziana e inglese, però evidentemente fino a questo momento, anzi, le autorità egiziane hanno sminuito il caso e addirittura hanno detto che se in sciopero della fame è una sua scelta e che addirittura hanno negato addirittura la doppia cittadinanza. Quindi evidentemente le autorità egiziane hanno detto da tempo non ascoltano nessuna richiesta, e nel caso in cui le condizioni di salute di Ala dovessero peggiorare, è evidente che questa conferenza sarebbe macchiata di sangue e la questione dei diritti umani diventerebbe primaria di primaria importanza anche rispetto agli altri temi trattati. La comunità internazionale, in particolare l'Occidente, ma in particolare l'Italia, pur sollevando nominalmente questa questione, però hanno affari con l'Egitto che non fanno esercitare una pressione seria, è così? Anzi, l'incontro tra Meloni e Al-Sisi evidentemente è una tentativo di un'organizzazione completa dei rapporti tra Italia ed Egitto. Se non c'era già stata, adesso c'è stata in maniera eclatante. Tutti i casi, a caso Regeni e il caso di Patrick Zaki, vengono posti in secondo piano e si punta sul gas, si punta sulle questioni legate agli accordi sui migranti, si punta sul ruolo che l'Egitto ha in Libia per mettere a tacere qualsiasi tipo di pestaggio, qualsiasi azione che mancanza di rispetto dei diritti umani, che non riguarda appunto gli attivisti soltanto egiziani che abbiamo citato, ma evidentemente riguarda anche attivisti europei e attivisti con doppia cittadinanza o attivisti che studiavano, come il caso di Patrick Zaki, in Italia sono tantissime iniziative da questo punto di vista. Ci sono stati 56 parlamentari democratici negli Stati Uniti che hanno scritto una lettera a Joe Biden, che parteciperà alla conferenza dopo le elezioni di midterm, chiedendo il rilascio dei prigionieri politici, tra cui Chris Murphy, David Sinlin e vari altri. C'è una lettera molto interessante di 15 vincitori del premio Nobel che chiedono appunto all'autorità egiziana di rilasciare dei prigionieri politici. Però è evidente che l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, le istituzioni internazionali, quindi non soltanto il governo italiano, ma pensiamo per esempio al governo francese, che ha un asse di ferro con il Cairo che è ancora più forte forse di quello italiano, non fanno altro che sostenere il regime di Al-Sisi. In un contesto di crisi economica per cui la lira egiziana si è svalutata, è un'inflazione galoppante, è stato firmato proprio alla vigilia del summit di Sharm el-Sheikh un accordo tra Unione Europea ed Egitto per il controllo dei confini e quindi anche qua per contenere i flussi migratori di 80 milioni di euro. C'è questo ONG egiziana, piattaforma egiziana per i rifugiati, che ha denunciato questo programma come un programma che ha lo scopo di rafforzare una partnership che sostanzialmente viola i diritti umani. Quindi evidentemente c'è una cooperazione sempre più stringente tra Unione Europea e regimi autoritari per fermare i flussi migratori. Pensiamo alla Libia, pensiamo ad Haftar, e evidentemente questo è tutto fatto sulle spalle dei migranti. C'è un tranche di prestito dal Fondo Monetario Internazionale di 3 miliardi di dollari che si aggiunge al prestito di 12 miliardi di dollari che il Fondo Monetario Internazionale ha già assicurato all'Egitto, e ricordiamo che tutti questi prestiti arrivano all'Egitto a discapito dei più poveri, perché vengono tagliati i sussidi, viene tagliata la spesa pubblica e quindi si aggravano le disparità tra ricchi e poveri. L'Egitto è uno dei paesi dove il 30% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno. Addirittura c'è questo studioso Robert Springborg che ha parlato dell'Egitto come uno stato che mendica, uno stato la cui economia dipende dal sostegno esterno, in particolare dai prestiti. Quindi è evidente che le autorità egiziane, da un punto di vista finanziario, dipendono dal sostegno internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, ma anche di Arabia Saudita, ma anche gli Stati Uniti. Pensiamo agli aiuti militari degli Stati Uniti che in qualche modo vengono annunciati come vicini ad un taglio, ma che in realtà continuano ad arrivare 1.3 miliardi di dollari all'anno all'Egitto. Quindi evidentemente, nonostante le dichiarazioni ufficiali di attenzione nei confronti dei diritti umani, ci sono dei rapporti commerciali sempre più solidi, anche rapporti con le imprese militari e quindi con fornitura di armamenti, che rendono rapporti bilaterali tra Unione Europea ed Egitto, in particolare tra Israele ed Egitto, tra i più forti e solidi in Nord Africa e in Medio Oriente.